sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non senza avere tastato ogni regalo per intuirne il contenuto, tentai qualche timido capriccio. Speravo di mettere un po' di fretta agli adulti a tavola. A quell'ora l'eccitazione stava diventando estenuante. Sono Francesca, vivo a Bologna da più di 10 anni e sono avvocato. Amo viaggiare e scrivere per fotografare il lato più leggero e ironico delle cose. Quando leggevo una storia nella mia giovinezza, accadeva talora che prendesse forma dentro di me un paesaggio ampio, profondo e quieto. Qualche volta le luci si spegnevano, il bianco e il nero si accentuavano e poi si scindevano e spuntavano le ombre. Qualche volta mi meravigliavo perché avevo l'impressione che il mondo intero fosse fatto di una luce del tutto diversa. E qualche volta il crepuscolo pervadeva e copriva ogni cosa. L'intero universo diventava una singola emozione e un singolo stile. Capivo che ciò mi piaceva e sentivo che stavo leggendo il libro per quella particolare atmosfera. Mentre venivo lentamente sommerso dal mondo del romanzo, mi rendevo conto che le tracce delle azioni che avevo compiuto prima di aprire le pagine di quella storia, seduto nella casa di famiglia, nel quartiere di Beşiktaş a Istanbul, il bicchiere d'acqua che avevo bevuto, la conversazione con mia madre, i pensieri che avevano attraversato la mia mente, i piccoli risentimenti albergati, svanivano piano piano. Sentivo che la poltrona arancione in cui ero seduto, il posacenere maleodorante lì accanto, la stanza piena di tappeti, le grida dei ragazzini che giocavano a pallone in strada e il fischio dei battelli in lontananza, retrocedevano dalla mia mente. E un mondo nuovo prendeva forma davanti a me, parola per parola, frase per frase. Pagina dopo pagina quel mondo nuovo si cristallizzava e acquistava nitidezza, come quei disegni segreti che appaiono a poco quando ci si versa sopra un reagente. Venivano messi a fuoco linee, ombre, avvenimenti e personaggi. In quei primi momenti, tutto ciò che ritardava il mio ingresso nel mondo del romanzo e mi impediva di ricordare e immaginare personaggi, avvenimenti e oggetti, mi procurava un enorme fastidio. Questo è un po' il nostro regalo di Natale oggi per questa puntata speciale che va in onda il 25 di dicembre in una forma speciale, appunto, non solo mezz'ora ma un'ora intera. Questo è di fatto l'ultimo Natale che trascorriamo insieme qui a Radio 24, ormai lo sapete, da gennaio questa avventura finirà, ne comincerà un'altra qui e io e Tiziano ne cominceremo un'altra altrove. Con le parole di Orhan Pamuk, che sono tratte da un suo romanzo, che in realtà non è un romanzo, è un saggio, è un po' come le lezioni americane di Calvino. Pamuk un paio d'anni fa è stato invitato a tenere una lezione ovviamente negli Stati Uniti, ad Harvard, e questo è quello che è stato tratto da quella lezione. Lui parla dei romanzi e parla delle storie, e questo è quell'effetto che probabilmente hanno le storie su ognuno di noi, no? Ci fanno vivere, nel nostro caso, quello che abbiamo fatto in questi anni, più che storie inventate, storie di altre persone. Ci trasportano dalla nostra automobile dove siamo e dove stiamo guidando, o da casa nostra o al lavoro dove stiamo ascoltando la radio, e ci portano da un'altra parte. Spero che questo sia quello che siamo riusciti a fare in questi anni, in queste stagioni di programma. Io vi ricordo che c'è ancora per poco attivo un indirizzo email, che voi siete qui, @radio24.it, ma vi ricordo anche che comunque i profili miei personali, ma anche quelli di Tiziano, su Facebook e su Twitter, che sono Matteo Caccia ovviamente, sia su Facebook che su Twitter, rimangono attivi, quindi se avete voglia di sapere cosa continuiamo a fare, basta venire lì e cercarci lì. Noi per oggi continuiamo a raccontare storie, e anche in questa giornata natalizia sono storie ovviamente che hanno un po' quella declinazione lì. Sono 4 storie oggi, è una puntata particolare perché appunto dura un'ora intera, quindi abbiamo 4 storie. Cominciamo con la storia di Francesca, che racconta di un regalo molto particolare. È proprio, avete presente il regalo che si dice no, quel regalo lì non si fa mai, non è un regalo, lo si va a prendere se si è deciso, se lo si vuole prendere, ma non si può regalare. Ecco, quella regola lì dimenticatevela. Ero una bambina serena, di circa 4 anni. La mia vita scorreva talmente liscia che una delle agitazioni più forti che ricordi era legata alla folle curiosità di scartare i regali la vigilia di Natale. Mi imponevano una cena di famiglia di cui poco mi importava. Ora ci penso con piacere e calore, ma allora era un'introduzione lunga ed estenuante che dovevo tollerare prima di trasferirmi vicino all'albero. Tra l'altro, l'anno prima, per via di un errore nella distribuzione dei pacchi, avevo scoperto che Babbo Natale erano i miei genitori. Mi ero trovata tra le mani un portafoglio da uomo. I parenti avevano tentato di imputare la colpa al vecchio e alle sue renne. Voglio dire, non è difficile sbagliare quando devi fare il giro di tutti i bambini del mondo. Veniva dal polo e non esistevano neppure i GPS. Ma le facce degli adulti, l'atmosfera imbarazzata, divertita, mi avevano convinta del fatto che Babbo Natale fosse tutta una grande bufala. Non l'ho vissuta come un vero e proprio shock, nel senso che me la ricordo tutto sommato anche allora come qualcosa di divertente. C'era molta allegria nell'aria, io sono rimasta stupita, ho cercato di capire se esisteva o non esisteva, e poi insomma diciamo che la reazione degli adulti ha reso tutto piuttosto evidente, per cui niente, me ne sono fatta una ragione e ho aspettato il mio regalo, perché giustamente avevano sbagliato regalo e quindi io comunque aspettavo il mio regalo. Ad essere sinceri, la questione non mi aveva sconvolta più di tanto. Avevo solo litigato con un paio di compagni di asilo, ingenuamente pronti a gettarsi nelle fiamme a testimonianza invece dell'esistenza di Babbo Natale. Beh, eravamo in cucina. Babbo Natale non esisteva. I grandi parlavano, parlavano, mangiavano e parlavano. Notai che mia mamma si alzava spesso e poi spariva. Chissà perché. Come al solito, ero rimasta inchiodata alla sedia fino al secondo. Poi saranno gli effetti del vino, genitori, nonni e zii. Perdevano un minimo di controllo e io ci guadagnavo in elasticità. Scivolai dalla sedia e sgusciai in sala. Sotto l'albero c'erano tante scatole colorate, più o meno grandi. Individuai quelle che speravo fossero mie. Erano le più grosse. Quanta magia si nascondeva lì dentro. Avrebbe potuto esserci qualsiasi cosa. La mia fantasia galoppava come un cavallo imbizzarrito, mentre in cucina erano passati ai liquori. Non senza avere tastato ogni regalo per intuirne il contenuto, tentai qualche timido capriccio. Speravo di mettere un po' di fretta, a quell'ora l'eccitazione stava diventando veramente estenuante. Per la prima volta mi assecondarono, senza bisogno di insistere. «Cosa ne dite? Andiamo?» Tutti, sorridendo, accalorati dalla cena e dalla piacevole ebbrezza, risposero che sì, era perfetto, potevamo partire. Ci trasferimmo in sala e iniziò la distribuzione dei regali. Il mio personale dramma fu subito evidente. Ne avevo uno in meno del solito. Erano solo due pacchetti, uno degli zii e l'altro dei nonni. Uno dei due era pure un libro, cosa che a 4 anni mi faceva sognare meno di una bella bambola, ovviamente. I miei genitori mi avevano lasciato a bocca asciutta. Seguirono un paio di battute alle mie spalle che mi fecero temere che anche quell'anno qualcosa fosse andato storto con le consegne. Mia mamma, come poi scoprì, più costretta dalle contingenze che intenerita dal colore rosso-bluastro della mia delusione, non resse oltre e mi domandò: «Cosa fai? Parti da quelli o andiamo a prendere il nostro?» Io, ovviamente, volevo il loro. Seguirono istanti lunghissimi in cui mamma e papà uscirono dalla porta d'ingresso, sparirono per almeno 5 minuti. Poi, d'un tratto, il campanello della porta suonò. Io mi sentivo scoppiare. Da fuori proveniva un cigolio acuto, continuo. Era una specie di richiamo. Così corsi ad aprire, e fu la prima volta che la vidi. Era un dolce, sovraeccitato e puzzolente cucciolo di pastore tedesco. Era una pallina di pelo dolcissima, era molto felice, tra l'altro anche lei era assolutamente confusa quanto me, io non me l'aspettavo e lei non si aspettava quello che poi sarebbe successo, per cui insomma è stata una conoscenza molto spontanea, molto, molto dolce. Sgommava su un pavimento troppo liscio per i suoi polpastrelli ancora morbidi come il cotone. Scodinzolava a tutti, senza sapere chi sarebbe diventato il suo migliore amico. Era già Natale e tornammo a casa in 4, però questa volta. Io non desideravo altro al mondo. Da quella fredda e stupenda sera è rimasta con me per 12 lunghi anni. Siamo state piccole e cresciute insieme. Nessuna delle due ha mai perso la sua spontaneità un po' infantile. Io la conservo ancora, a 30 anni suonati. Prima abbiamo giocato. Lei sopportava i miei dispetti arricciando il naso. Quando superavo il limite mi mostrava il canino destro. Poi abbiamo parlato tantissimo. Ti ha ascoltata gli sfoghi della mia adolescenza. Mi ha aiutato a superarli con occhi dolci e ingenuo. Traduceva i miei silenzi o le mie parole in stati d'animo e li faceva suoi. Poi ha gioito con me per le mie vittorie e ha smorzato tante piccole e grandi preoccupazioni, appoggiandomi il muso sulle gambe. Mi ha cambiato la vita, e come se mi ha cambiato la vita, come solo un grande amore senza rimpianti sa fare. Innanzitutto elegantissima Francesca nella foto che ci ha mandato, oltre che bellissima, è vestita di nero, un abito lungo con un po' di collo qui sul petto, calze nere, scarpe nere col tacco, tiene in mano una borsetta che probabilmente le donne chiamano pochette, chiedo a Miriam. Miriam ne sa quanto me. Alle sue spalle un panorama tipicamente autunnale con delle vigne e delle piante senza più le foglie. Pronto Francesca, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Buon Natale a tutti. Buon Natale anche a te, come stai? Bene, grazie, tutto bene. State festeggiando a casa come si fa di solito in questi casi, serenamente, o avete optato per qualcosa di diverso? Natale è sempre uguale da 32 anni, a casa con nonna, genitori, nonna paterna, e insomma si torna indietro nel tempo. Quanti anni hai? 32 anni precisi tu, Francesca? 32 precisi. Mi ricordi dove abiti? Io vivo a Bologna, è una città in cui mi sono trasferita per l'università e poi mi sono fermata anche poi per il lavoro. Che cosa fai? Mi ricordi anche quello, per piacere. Sono avvocato, un poco poetico. E lo dici quasi tanto, quasi con rassegnazione. No, sì, dai, no, poco poetico rispetto allo scrivere, almeno. Che tipo di avvocato sei? Civilista, facciamo un po' di civile in generale, sì, abbiamo il nostro studio, io e un'amica. Ammazza, è uno studio... Abbiamo scelto questa strada. Hai uno studio tuo? Sì, mi sono lanciata, ho pensato come... che era il caso di farlo prima piuttosto che poi. E come sta andando? Sta andando bene, siamo contente, ci vuole pazienza, però insomma siamo piuttosto contente, le cose crescono poi pian piano, esponenzialmente. Mi dici qual è l'ultima causa che hai fatto? L'ultima causa che ho fatto, dunque, dai, la più carina è quella di un medici. Mi abbiamo chiesto un risarcimento allo Stato per un'applicazione tardiva di una direttiva europea. La più carina come diritto, immagino che suoni noioso solo a sentirlo, però è stato divertente scriverlo. Senza entrare nel merito, cioè si tratta di che cosa? Cioè lo Stato non ha applicato, qual era la... l'ordinanza, no, come di fatto riguardava il pagamento delle borse di specializzazione, per cui c'è stata tutta una contesa con lo Stato, per cui in teoria le borse devono essere più alte, subito non c'erano, poi erano basse, insomma lo Stato italiano è stato un po' quindi vinto, parliamo di ragazzi niente di troppo strano, quindi parliamo di ragazzi che studiano e che si stanno facendo le ossa, qui non arrivavano i soldi che dovevano arrivare. Esatto. E l'avete vinta? Poi in realtà è passato. È ancora in corso, lo sapremo tra qualche anno se tutto va bene. Proprio, insomma, i tempi della giustizia italiana, più o meno, grosso modo. Esatto, esattamente. Dove sei invece in questa foto e perché sei così elegante anche, Francesca? Allora, in quella foto sono un matrimonio, l'ho fatta in realtà quando mi avete chiamato perché non avevo foto disponibili, allora insomma mi sono fatta fare una foto così lì al volo. Di solito non sono così elegante, sì. Beh, è stato un caso. Lo immagino che tu, perché sei impeccabile in questa foto. Veniamo invece alla storia, parliamo un po' di come si chiamava il tuo cane innanzitutto? Nicole. Nicole con la M di Milano? No, con la N. Con la N, N di Napoli, perfetto. Nicole. Il nome gliel'avevi dato tu? Il nome sì, l'ho scelto con i genitori, abbiamo vagliato una serie di possibilità e poi Nicole ci piaceva. Senti, quanto tempo fa è mancata Nicole quindi? Guarda, avevo 16 anni, quindi matematica non sono fantastica, ma... No, però direi 16 anni fa, esatto, insomma. Esatto. Senti, che cosa ti ricordi di lei oltre al momento dell'incontro che ci hai raccontato? Guarda tutto, nel senso che per me Nicole è stata una grandissima amica, nel senso che siamo cresciute insieme, siamo state cucciole insieme e dopo poi sono cresciuta e ho apprezzato e amato tantissimo quello che è il lato ingenuo e spontaneo, dolce dei cani, insomma la loro capacità di dare un amore incondizionato. Che carattere aveva lei? Era un cane che si faceva dar del lei, non era dolcissima. Diciamo che io avevo un rapporto assolutamente privilegiato perché io potevo farle di tutto e lei sopportava, anzi non vedeva l'ora di stare con me, però in generale era un cane da guardia, ecco, era un non si faceva avvicinare facilmente. Mi piace molto la descrizione, si faceva dar del lei, è chiarissima, vale per un cane tanto quanto per una persona, che ci sono delle persone per cui non oseresti mai dire grandissimo, come stai? Dai, ma è sempre buongiorno, tutto bene? Bene, buongiorno, esatto. Mi fa piacere. Cosa fai per Capodanno? Ti faccio proprio le domande dell'ABC, Francesca, che si fanno il giorno di Natale. Hai già in mente oppure? Per Capodanno vado a Marrakesh. Ah, brava! Oh, sì, finalmente sì, una che non mi dice, ma niente, sto qui. Con chi vai? Amici, fidanzato? No. Vado con fidanzato e un'altra coppia di amici. Aia! Occhio. Da quanto vi conoscete con gli amici? È da un bel po', anzi considera che tra l'altro gli amici sono il fratello del fidanzato e la moglie del fratello del fidanzato, nonché mia socio, cioè abbiamo lo studio insieme. Quindi... Ammazza, è un doppio giro questo, cioè scusami. È un doppio giro, sì, anzi la gente di solito si allarma quando lo dico, ma quindi va tutto bene, siamo molto amiche. Avete già fatto vacanze insieme? Sì, ah, no, okay. È abbastanza. Siamo tranquilli, allora. Dai, no, siamo tranquilli, no, molto brava. Tranquilli. Brava, Marrakesh, prendete uno di quei posti, come si chiamano quei posti che vanno tanto di moda? Un Riyadh. Andiamo in un Riyadh, sì, esatto, perfetto. Esatto. Perfetto, quindi vi auguro buone vacanze. Francesca, grazie ancora per la storia e ovviamente, insomma, il Natale ci siamo in mezzo, comincia bene il 2015 e proseguile ancora meglio se possibile. Grazie mille altrettanto e auguri a tutti. In bocca al lupo, ciao Francesca, grazie. Ciao Crepi, ciao ciao ciao, ciao, ciao, ciao. Siamo nel 1992. Stiamo insieme da 3 mesi e questo è il primo Natale che trascorreremo insieme. È la vigilia di Natale e lavoro mezza giornata. Lei è a casa a studiare. Esco dall'ufficio e vado a casa sua. Viviamo ancora con i nostri genitori e capita di rado di vederci da soli. Se i suoi non ci sono, magari ci scappa un pomeriggio di coccole natalizie. Entro in casa sua e noto qualche cosa di strano. Non c'è nulla di natalizio. Albero, presepe, addobbi, nulla. Non sembra nemmeno che sia Natale. Chiedo come mai e lei mi dice che i suoi non hanno mai fatto alberi o simili, in quanto è stupido buttare via soldi per una cosa che si usa una sola volta all'anno. Le chiedo se anche lei la pensa così. Quando risponde no, capisco che cosa regalarle per Natale. Trascorriamo tutto il pomeriggio insieme. Ovviamente per negozi bisogna fare gli ultimi regali. La pioggerellina leggera si trasforma in nevischio. Sto tornando a casa con i mezzi pubblici e durante il viaggio organizzo il suo regalo. Dunque, lei abita a 20 km di tangenziale da casa mia e lungo la strada c'è un centro commerciale che sarà sicuramente aperto. Prendo la macchina della mamma, compro l'albero, le palline, gli addobbi e glielo porto. Perfetto. Sono circa le 7 quando entro in casa. Non c'è nessuno, nemmeno le chiavi dell'auto. Niente. Ho solo una possibilità, la moto. È un 125, so che non può andare in tangenziale, ma non ho alternative. Corro il rischio multa sperando che non mi sequestrino il mezzo. Ora, più che nevischiare, nevica. Debolmente, per fortuna. Io sono un po' in panico. È la vigilia di Natale, nevica. Sto guidando un 125 in tangenziale ed il giubbotto di pelle che credevo impermeabile si rivela esserlo come un maglione. Oltre che in panico, mi sento un perfetto idiota. Riesco ad arrivare al centro commerciale. Prendo l'albero e due scatoloni di palline, oro e rosse. Poi esco, arrivo alla moto e mi chiedo: e sta roba dove la metto? La rete ferma pacchi è piccola. Dietro c'è la marmitta. Si scalda e squaglierà le palline. Mettiamo tutto davanti. Tanto ormai è andata. Lego agli specchietti i sacchetti che contengono le palline, metto l'albero sul serbatoio e molto, molto lentamente mi avvio. Mancano sì e no 3 chilometri e ho un solo pensiero fisso. Ora mi ferma la polizia. In lontananza vedo dei lampeggianti azzurri e si dirigono verso di me. È la polizia, ma è sull'altra carreggiata. Mi dico: Gianni, muoviti ed esci in fretta dalla tangenziale. Arrivo a casa sua, citofono, apre lei. Siamo sposati da 12 anni e quell'albero lo adobbo ancora. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if pensa un po' come siete fortunati se ad esempio è la prima volta che accendete la radio a quest'ora, perché siete in macchina e avete appena mangiato o magari siete a farvi i fatti vostri e non avete mai sentito questo programma. Mai! Pensa che culo che ve lo potete sentire oggi, il giorno di Natale, con un surplus di storie incredibili. Abbiamo appena raccontato la storia di Gianni, dopo quella di Francesca, che è una storia che appunto ci fa visualizzare un povero Cristo con una moto mentre nevica e un albero di Natale attaccato al serbatoio. Ma dopo un briciolino di pausa noi torniamo con altre due storie, eccezionalmente solo oggi per il giorno di Natale, fino alle 5, a raccontare storie. In questo caso la storia di Miriam e la storia di Ivan. Voi siete qui. Sono Miriam, romana ma con il vizio dell'onestà e con uguale passione insegnante e, non voglio usare un termine troppo altisonante, di scrittore, creatrice di storie. Le storie sono seconde vite. Al pari dei sogni di cui parla il poeta francese Gérard de Nerval, rivelano i colori e la complessità della nostra vita e sono pieni di gente, facce e oggetti che ci sembra di riconoscere. Leggendo un romanzo, leggendo una storia, come nei sogni, accade a volte che la natura straordinaria degli avvenimenti ci colpisca con tale forza da farci dimenticare dove siamo. E con l'occhio della mente vediamo noi stessi fra le persone e i fatti immaginari di cui siamo spettatori. In tali occasioni ci sembra che quel mondo fittizio e godibile sia molto più reale di quello in cui viviamo, che queste seconde vite ci appaiano più reali della realtà. Spesso significa che sostituiamo i romanzi e le storie alla realtà, o quantomeno li confondiamo con la vita reale. E ancora un passaggio tratto da questo libro che, se vi dovesse interessare, è pubblicato da Einaudi, di Orhan Pamuk, che si intitola Romanzieri ingenui e sentimentali. Sono delle lezioni sulle storie e sui romanzi. E abbiamo scelto proprio questo passaggio sui sogni perché la storia che stiamo per raccontarvi, quella di Miriam, parla di un Natale, parla di un regalo di Natale che ha a che fare proprio con questo, con una delle cose più inconsistenti che ci siano, con i sogni. Un sogno che però lei percepisce ovviamente come un regalo. È il giorno di Natale, il 25 di dicembre, noi siamo in onda in maniera straordinaria ed eccezionale, che detto così sembra, siamo in onda in una maniera veramente incredibile, semplicemente proprio straordinaria dall'etimologia, cioè non ordinaria, perché di solito a quest'ora c'è Oscar Giannino e invece lui si sta godendo il Natale, no, anche noi ovviamente lo stiamo facendo e vi stiamo raccontando delle storie. Come vi dicevo prima, questo è l'ultimo Natale che passiamo insieme qui, ma né io né Bonini moriremo, andremo avanti ancora per tanti anni e quindi ci troverete in giro chissà dove. La storia di Miriam è una storia legata all'infanzia e soprattutto è una storia legata ad un sogno. Il mio più bel regalo di Natale è stato un sogno. E forse come pura proiezione onirica non rientra di diritto nella categoria regali. Io però voglio raccontarlo ugualmente. Ero piccola, una bimbetta mingherlina con i capelli alla maschietta e occhi neri più grandi del viso. Avevo già provato il mio primo grande e intenso amore, e questo era per mio padre. Ma lui mi lasciò, ed io lo percepii come un abbandono che neppure ora, ormai in età pienamente matura, forse non gli ho mai perdonato. Lo fece per raggiungere un luogo più grande e confortevole da condividere con creature ormai divenute puro spirito e dunque di grado più elevato. Quando è mancato il mio papà avevo soltanto 3 anni, ma ricordo molto perché avevamo un legame magico. La sorella di mio padre diceva che passavamo ore a parlare insieme. Io preferivo stare vicino a lui, che non stava bene, che giocare con i miei cuginetti. Con la mia mente tentavo di seguirlo in quel viaggio e di immaginarlo circondato da prati sconfinati e fiori inusitati e bellissimi, ed in compagnia di nonni e zii che non avevo fatto in tempo a conoscere, ma ciò non riusciva a consolarmi. Mi mancava e lo volevo qui, accanto a me. Il Natale si avvicinava, il primo senza di lui, ed in modo direttamente proporzionale aumentava la mia tristezza. E neppure il pensiero dei regali che forse avrei ricevuto sotto un albero che immaginavo gigantesco riusciva a consolarmi più di tanto. Quella notte, nel mio lettino di legno rosa, mi sentivo piccola e indifesa e provai allora a chiamarlo, a raggiungere come potevo quell'uomo ancora così giovane e sorprendentemente bello, sia d'animo che di fattezze. Ma mi rispondeva soltanto un silenzio desolato. E così mi addormentai con sulle labbra ancora quella parola per me magica, papà. La camera dove riposavo iniziò a dilatarsi e a perdere contorni, ed io mi trovai proiettata in un parco bellissimo, così reale che sentivo gli uccellini cinguettare e i fiori profumare dinanzi a me, davanti un lungo viale alberato. Prima che vederlo lo percepii, ed il mio cuore iniziò a balzarmi nel petto, tanto che credetti dovesse anche lui prendere il volo. In fondo al viale, al confine tra il cielo e l'infinito, riconobbi la sua sagoma, alta, snella, e di lì a poco furono i suoi occhi nerissimi a fissarmi con dolcezza, una dolcezza che non è possibile esprimere a parole. Veniva verso di me, vestito di bianco, un borsalino a falde un po' larghe sulla testa, con il suo incedere aristocratico ed elegante che gli era valso il soprannome di il principe. Papà, a parte che era di una bellezza fisica veramente straordinaria, era quasi il sosia di Rodolfo Valentino e aveva altrettanto doti proprio di bontà e generosità. E lo chiamavano il principe perché amava molto vestire bene e appunto con la sua presenza fisica, era alto quasi 1,90 m, e gli abiti che portava sempre di grande eleganza, il soprannome era proprio il principe. Vedevo che stringeva a sé qualcosa, ma ancora non riuscivo a distinguere di che si trattasse. Giunto che fu a pochi passi da me, il suo sorriso si allargò a tal punto che vidi scintillare i suoi candidi denti. Poi si chinò verso di me, che me ne stavo invece immobile, paralizzata dall'emozione e piena di amore che mi ribolliva dentro come un fiume in piena. Come se giocasse a nascondino, vidi spuntare dalle sue braccia, che teneva conserte sul torace, un musino peloso, un bellissimo cucciolo bianco come la neve. Parve sorridermi al pari di quel bellissimo papà. D'un balzo il cucciolo atterrò tra le mie braccia ed io, dopo averlo stretto forte contro di me, alzai il viso per ringraziare il mio papà, ma lui non c'era già più. Mi aveva dato ancora una volta, come poteva, il suo amore, e forse già sapeva che quello sarebbe stato il mio più bel regalo di Natale. The simple phrase, two kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. solo brani di She and Him, che sono una band ovviamente indie rock americana che Tiziano sceglie per noi, che hanno fatto un disco natalizio e che quindi abbiamo trasmesso nella prima parte, I'll Be Home for Christmas, cioè sarò a casa per Natale, e questa che ha commentato la storia di Miriam invece era The Christmas Song. Ciao Miriam, buongiorno! Ciao Matteo, innanzitutto tanti auguri di Natale. Grazie mille, anche a te altrettanto ovviamente. Sei a casa con la tua famiglia? Sì, sono a casa con la mia famiglia. Benissimo, in quanti siete più o meno? Ma guarda, siamo una famiglia estremamente proprio concentrata, perché al momento siamo io e mio figlio. Ah, ok, perfetto, quindi siete in due. Mi ricordi Miriam dove abiti? Io abito a Roma. A Roma. Senti, noi abbiamo già fatto storie insieme, vero? Tu gli hai già mandato delle storie? Sì, ho avuto la fortuna di avere già selezionate due storie, Come eravamo e Lo Stalker. Ah, certo, quello dello stalker me lo ricordo. Invece Come eravamo me la ricordi più o meno di cosa? Come eravamo parla di una serrata al liceo Mamiani durante la contestazione giovanile. Ah, certo, me lo ricordo benissimo adesso. Grazie mille per questa storia che è molto natalizia nella sua profonda malinconia, ovviamente, perché tu eri una bambina, eri piccola quando hai mancato il tuo papà. Ero una bambina molto piccola, ma ripeto, ero piuttosto svelta, ma con papà si parlava come se fossimo quasi due adulti. Questo lo ricordo veramente con grandissima precisione e limpidezza. Che lavoro faceva il tuo papà? Papà era, diciamo, lavorava, era il segretario particolare del presidente dell'Istituto delle Case Popolari. Ah, ok, quindi era un ruolo istituzionale. Sì, era un ruolo piuttosto importante, perché era una persona anche di una certa cultura, soprattutto rapportata a quei tempi. Quindi il principe stava anche, insomma, sia per il suo portamento sia per la sua levatura. Sì, aveva fatto studi classici, insomma era una persona, ripeto, culturalmente piuttosto preparata. E quanti anni aveva quando è mancato? Doveva farne 40 dopo pochi giorni, perché lui è scomparso il 1 maggio e il 15 sarebbe stato il suo compleanno. E di cosa è scomparso all'improvviso? Lui aveva un problema legato cardiaco, diciamo, alla valvola mitralica. Ho capito. E che anni erano, perdonami, per inquadrare bene tutta la situazione? Guarda, siamo alla fine degli anni 50. Perfetto, quindi tu sei rimasta con la tua mamma e avevi fratelli o sorelle? No, purtroppo sono, come si dice da noi a Roma, figlia unica di madre vedova. Ah, che, beh, credo sia un modo di dire non solo romano, giusto? Nel senso che... Sì, per cui ero solissima, eravamo io e lei nel ricordo di questo uomo straordinario. E come è stato crescere solo due donne con la tua mamma? Beh, certi nonni, perlomeno, certo, soprattutto immagino. Il mio nonno proprio paterno, che in parte siamo stati supportati, e poi mia madre era una donna molto moderna per quei tempi, era un insegnante, cioè una donna che lavorava, anche lei molto amante della cultura, per cui ce la siamo cavata abbastanza bene. Bene, senti, invece con tuo figlio, quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha 36 anni. E cosa fa nella vita? È fortunato di questi tempi, ha un lavoro che non c'entra assolutamente nulla con il suo titolo di studio, lavora in una clinica privata. Ah, ok. È una, diciamo, un assistente, è una figura sanitaria, l'OSS, come si dice ora. E lui cosa ha studiato? Aiuto infermiere. E lui cosa, che studi ha fatto invece lui? Lui ha fatto il liceo e poi si era assegnato all'università, e poi però ha preferito cercarsi immediatamente un lavoro. Poi certo. Non è detto che non riprenderà gli studi. Certo, certo, scelta. Certo, immagino. Scusami, invece questo regalo che il tuo papà ti fece in sogno all'età di 4 anni, giusto? Più o meno era di fatto un cane. Te lo chiedo perché in questa puntata speciale di Natale, proprio pochi minuti fa, abbiamo raccontato la storia di una ragazza a cui viene regalato, però in maniera fisica e concreta, un cucciolo di cane che rimane con lei per 12 anni. È rimasto un sogno quello, non hai mai ricevuto un cane? Chiaramente nel sogno, questa proiezione onirica è legata alla mia passione, addirittura proprio sviscerata per gli animali, che io adoro, e per cui chiaramente nella proiezione onirica ho visto un cane. Dopodiché ho avuto un cagnolino, ma chiaramente l'ho avuto per altri... Certo, cioè, certo. Non l'ho avuto, chiaro, quello era soltanto un sogno. Chiaro, era la... Io sono sempre vicino agli animali, cani, gatti, pappagalli, e chi più ne ha più ne mette, insomma, per cui per me al momento era il regalo più desiderato. Miriam, mi ricordi che cosa hai fatto nella vita? Guarda, io ho insegnato, insegno lettere in una scuola privata che però per la crisi, ahimè, da recentemente ha chiuso e al momento mi dedico alla mia passione di scrivere, che diciamo è una passione che coltivo già da bambina. Benissimo, Miriam, senti, io ti ringrazio ancora per la storia, ti auguro un buon Natale e soprattutto un anno che inizi bene e che continui ancora meglio. E la stessa cosa che auguro a te e a tutto il tuo staff. A presto, grazie Miriam, buona giornata. Ciao, ciao, a presto. Matteo. Ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. Abbiamo molta più anima, We Got More Soul, questo pezzo veramente black che ci ha mandato Tiziano Bonini di Dick and the Blazer o Dick and the Blazer, questo lo scopriremo probabilmente solo vivendo e tra l'altro non il giorno di Natale, perché immagino che non ci sia nessuno in grado di dircelo oggi, non abbiamo gli esperti musicali soliti tipo Paolino Corleone, ah no, Paolino Corleone c'è, attenzione, però non sa dirci se dice Dick o Dick and the Blazer. Quattro storie oggi, ve ne abbiamo raccontate tre e ne manca solo una, grandi donne tra l'altro oggi, grandi storie di donne, Francesca, Miriam e Ivana, con Gianni ficcato un po' in mezzo così a casaccio, potevamo fare una puntata solo femminile. Vi stiamo per raccontare l'ultima storia di oggi appunto, che è una storia ovviamente a tema natalizio. Ci sono dei Natali, e chissà perché sono quelli che ci ricordiamo di più, i Natali in cui siamo da soli e mangiamo schifezze invece che essere in compagnia e mangiare cose buonissime intorno a un tavolo. Io qualche anno fa feci un programma radiofonico che durò giusto le due settimane natalizie e convinsi l'emittente dell'epoca di mandarmi a farlo a New York, e quindi in quei giorni ero là a lavorare, chiaramente ero felicissimo di essere lì e di fare questo programma, ma il giorno di Natale mi ritrovai a mangiare anguria, credo portata dalla Florida o messicana, in uno di quegli store piuttosto tristi e malinconici, a mangiare un cheeseburger e delle fette di anguria che sapevano sostanzialmente di acqua. Eppure me lo ricordo come di un Natale piuttosto particolare. Mi auguro sia stato molto meglio per voi, o quantomeno abbiate mangiato molto meglio di quel qualcosa di più buono, di quell'anguria acquoso. Basta con le menate, continuiamo a raccontare storie. Vi dicevo, è da sola, non è in Italia, è piuttosto triste, ma fortunatamente a Ivana in questa storia, quel Natale là, succede qualcosa di molto molto interessante. Non sono tanto brava a scrivere, e di questo me ne scuso. Quando però ho sentito il vostro messaggio a proposito del regalo di Natale che in qualche modo ha cambiato la vita, non mi sono potuta tirare indietro. Dunque, parliamo di preistoria. Era il 1965 ed ero in Germania per imparare la lingua. Tempi duri, non tanto per trovare lavoro, che a quei tempi c'era, ma per la solitudine. Non esistevano canali satellitari, Facebook, Skype e altre diavolerie del genere. Inoltre i miei genitori non avevano neppure il telefono e le uniche notizie arrivavano via lettera. Se poi aggiungiamo che quei primi due mesi non avevo nemmeno i soldi per mangiare decentemente, quelli che avevo mi erano serviti per pagare il pensionato dove abitavo, e avendo iniziato a lavorare a metà novembre con il primo mezzo stipendio ho fatto altrettanto. Al mattino facevo colazione, mi mettevo due panini e una manciata di uvette in tasca, quella era la mia cena. A mezzogiorno pranzavo con un Würstel e Sauerkraut, che era il massimo che potevo permettermi con i buoni pasto della ditta. In questo clima, verso fine novembre, ho conosciuto un ragazzo romano che ha guadagnato dei punti portandomi fuori una sera a cena. Insomma, arriva il Natale e il pensionato si svuota. Tutte le ragazze tornano a casa e rimaniamo solo una ragazza milanese ed io. La colazione era più ricca del solito e Nina, la ragazza, ha diviso le sue scorte alimentari con me. Ad un certo punto però suona il telefono. Io non mi muovo, ovviamente, chi avrebbe dovuto chiamarmi. Nina risponde e mi passa la cornetta. È per te, mi dice. Per me? Rispondo e una voce maschile, romana, mi dice: Buon Natale! Quel semplice augurio mi ha cambiato la vita. Siamo sposati da 47 anni, 3 figli e un nipotino. Gioie ed arrabbiature come in tutte le famiglie, ma il viaggio continua. Siamo insieme, riusciamo ancora a ridere di tante cose e a sorprenderci. Ogni tanto torniamo a Francoforte ed è come fare un viaggio nel tempo. Mi sembra di tornare a casa. Guardo mio marito e gli voglio più bene che mai. Quel buon Natale di tanti anni fa mi ha veramente cambiato la vita. E mi basta richiamare alla memoria quei tempi per superare le difficoltà odierne. Buon Natale a tutti. Finisce qui anche questa puntata speciale dedicata solo alle storie di Natale. Domani noi siamo in onda, Santo Stefano, ma siamo in onda con una puntata anche quella speciale, tratta dal meglio di, un meglio di dei diari di Voi Siete Qui, lo spin-off di Voi Siete Qui che è in onda il sabato grazie alla collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Io vi ricordo che se avete voglia di ripassarvi, di rileggervi, di rifrequentare i racconti che noi abbiamo, le storie che abbiamo raccontato in queste stagioni di Voi Siete Qui, esistono degli ebook che sono gratuiti e sono scaricabili ancora per non so quanto, ma sicuramente oggi, domani, fino ai primi di gennaio di sicuro, scaricabili dal sito di Radio 24, dove trovate gli ebook, dove trovate i brani che mandiamo in onda se avete voglia di sapere di cosa stiamo parlando e che musica stiamo mandando. Io intanto ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che ovviamente sono Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Miriam Lucchetti e anche Mauro Pescio. Ringraziamo però gli autori delle storie di oggi, che sono Francesca, Gianni, Miriam e Ivana. Le storie di oggi erano le loro e anche loro sono 4 punti rossi su una mappa. Voi siete qui.